Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di politica attraverso la testimonianza di due politici italiani che hanno segnato la politica del Novecento e anche del 2000, perché sono tuttora in piena funzione, anche se hanno 90 anni il primo e 80 il secondo. Sono un po' il diavolo e l'acqua santa, ma la loro esperienza è sicuramente interessante. Le loro biografie sono pubblicate da Rubbettino. Sentiamo di chi parliamo. Diceva che il potere corrompe. Quali sono le conseguenze per averlo esercitato per tanto tempo? Guardi, il potere ha anche degli aspetti di tentazione, degli aspetti di superbia in cui uno può ritenersi superiore agli altri o montare in cattedra, però dà anche delle possibilità di essere utile o di tentare di essere utile sia in Italia che all'estero alla nostra nazione. E io, scusi la mia immodestia, ma ritengo che il mio conto sia positivo. Questa era un'intervista di Enzo Biagi a Giulio Andreotti. Giulio Andreotti lo troviamo nel libro curato da Marco Barone ed Ennio Dinolfo, Giulio Andreotti, l'uomo, il cattolico, lo statista, pubblicato appunto da Rubbettino, 342 pagine, 19 euro. Il libro è stato pubblicato in occasione del 90° genetliaco dell'ex primo ministro e della consegna del suo archivio personale all'Istituto Sturzo. E il libro si compone di una serie di saggi di vari autori sui diversi aspetti dell'attività del senatore a vita, che finiscono col tracciare una lettura della storia recente d'Italia del secondo dopoguerra, di cui Andreotti è ovviamente stato uno dei protagonisti più importanti. Particolare attenzione nel libro è dedicato a uno degli aspetti più controversi della politica di Andreotti, e cioè la politica estera, che analizza nel libro Ennio Dinolfo, che così la riassume: quando era possibile, negli spazi che le scelte di fondo lasciavano libero e indefiniti e rispetto ai quali esistevano interessi italiani, Andreotti era pronto a promuovere o appoggiare scelte autonome coraggiose. Questi spazi riguardavano la politica di difesa dell'Italia, gli interessi nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, l'attenzione per ciò che concerneva il mondo arabo, l'attenzione verso ogni spiraglio di collaborazione con tutti i paesi dell'Europa orientale, compresa l'URSS. Purché ciò, conclude Dinolfo, non contraddicesse le fondamenta delle scelte di schieramento negli anni della Guerra Fredda. Io in fondo sono 40 anni che dico e dimostro che stiamo andando sempre peggio. Ma tutta questa gente, di destra, di centro, di sinistra, di sopra e di sotto, qualcheduno li leggerà, no? Anche questo l'avrete riconosciuto, è Marco Pannella, che troviamo in un altro libro pubblicato da Rubbettino. Marco Pannella, biografia di un irregolare. L'autore è Walter Vecellio, molto vicino e amico di Pannella, che è un giornalista lui stesso radicale. Il libro costa 18 euro per 286 pagine. Il libro di Vecellio, ripeto, molto simpatico nei confronti dell'autore, serve a darci un quadro non soltanto del personaggio, ma anche di una tradizione culturale che è stata e rimane fortemente minoritaria nel nostro paese, ma che ha dato un grande contributo di idee, anche di provocazione, alla politica italiana. Quella di Pannella è sicuramente stata un'esperienza unica, visto che, come ammette l'autore, Pannella non lascia eredi, ma continua a impersonare una coerenza di cui la politica italiana ha sicuramente bisogno. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Walter Vecellio. Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta e grazie per l'ospitalità. Allora, Walter Vecellio, parliamo di Pannella. Lei nelle prime pagine rievoca gli inizi della sua carriera politica e ricorda il carattere liberale degli esordi politici di Pannella. Quanto ha pesato questa tradizione iniziale sulla politica poi successiva di Pannella? Ma io credo che abbia inciso e che incida tuttora. Pannella ha cominciato le sue prime mosse, diciamo, politiche nel Partito Liberale e nell'Unione Goliardica Italiana, e poi ha aderito e ha fondato il Partito Radicale, quello che oggi conosciamo. Però ancora oggi lui, quando si deve definire, dice di essere autenticamente liberale, liberista e libertario. Senta, lei insiste nel suo libro sulla volontà di Pannella di mantenere rigidamente la forma partito al movimento dei radicali. Che cosa ha rappresentato questa scelta? Ecco, più che la forma rigida partito, perché tenga presente, il Partito Radicale è un partito un po' anomalo rispetto a tutte le altre organizzazioni che conosciamo, non ci sono i probiviri, la tessera viene concessa, rilasciata, ma non c'è possibilità di rifiutarla a chiunque, anzi possono iscriversi al Partito Radicale anche persone che sono già iscritte ad altri partiti, non c'è la possibilità dell'espulsione, il congresso è a data fissa ed è aperto a tutti gli iscritti e anche a coloro che non sono iscritti, che possono intervenire, possono dire la loro e possono votare gli organi dirigenti. Però Pannella, fin dall'inizio, fin da quando negli anni 60 i radicali erano non più di 200 in tutta Italia, ha sempre voluto chiamarsi partito, ha sempre rifiutato l'etichetta di movimento, proprio per una connotazione politica ben precisa e anche un richiamo alle tradizioni che tuttora ci sono. Sotto un altro aspetto, Marco Pannella è stato un antesignano, il suo partito ha avuto sempre un taglio carismatico, anche nella Prima Repubblica grandi partiti come per esempio la Democrazia Cristiana avevano una connotazione meno personalizzata di quanto non abbia sempre avuto il Partito Radicale di Pannella, per l'appunto. Lei cita la Democrazia Cristiana, però citiamo anche gli altri partiti. Il Partito Socialdemocratico era Saragat, il Partito Repubblicano era la Malfa, il Partito Liberale era Malagodi. Insomma, ci sono state altre personalità che in qualche modo si identificavano con il partito. Però quello che lei dice indubbiamente è vero. Pannella, che pure non ha ricoperto, se non in un paio di occasioni, cariche ufficiali nel partito, e anzi qualche anno forse è stato addirittura non iscritto, indubbiamente ha esercitato ed esercita, le sta parlando uno che si onora di essere sia pannelliano che pannellato, quindi scopro subito le mie carte, per le proposte politiche che fa, per come le fa, per quando le fa, evidentemente riesce a essere sempre molto convincente, almeno per noi radicali, e quindi esercita quel ruolo, possiamo dire, di guida che altri di noi non sono capaci di esercitare. Il suo libro si conclude con il tema dell'eredità di Pannella. Che cosa resterà della sua parabola nella politica italiana? Ma guardi, questa è una domanda da 100 milioni, perché scrivendo quelle righe io sostanzialmente sostengo che il giorno, il più lontano possibile, per noi e per tutto il paese, perché credo che Pannella ancora oggi possa fare tante cose buone e utili per tutti, il giorno in cui sarà da un'altra parte sarà un gran brutto giorno e anche noi radicali magari continueremo a fare delle gran belle cose giuste e condivisibili, però non sarà più il Partito Radicale e credo che forse, insomma, come tutte le cose umane, c'è un inizio, c'è uno svolgimento, c'è una fine. Abbiamo visto anche altri partiti che si identificavano fondamentalmente in dei personaggi, in dei leader e poi, venuto meno alla guida di quel leader, quei partiti sono diventati un'altra cosa o non ci sono più. Io temo che oggi, insomma, di Pannella ce ne sono pochi personalità, io credo che ne esistano una, due in un secolo. Io non credo ci sia nessuno che sia in grado di raccogliere, diciamo, un'eredità, posto che un'eredità ci sia, come quella che Marco Pannella possa continuare la sua azione. Bene, grazie. Grazie a Walter Vecellio. Andreotti e Pannella rappresentano ciascuno nel suo genere un esempio straordinario di leadership e allora vi invito a un libro che fa una riflessione appunto su questo tema, quello della leadership, da parte di uno dei maggiori politologi viventi, Joseph Nye, di cui esce dalla Terza Leadership e Potere, Hard, Soft, Smart Power, 226 pagine, 9,50 euro, tradotto da Adele Oliveri. Come si fa a essere leader, si chiede questo libro, e soprattutto serve essere leader, soprattutto quando si devono guidare delle nazioni? La leadership, spiega l'autore, è ciò che si fa, non soltanto ciò che si è. Le funzioni svolte da un leader all'interno di un gruppo di individui consistono nel definire finalità e obiettivi, rafforzare l'identità e la coesione del gruppo, creare ordine e mobilitare il lavoro collettivo. Quindi, come vedete, questo libro è interessante non solo per chi voglia far politica o per chi voglia capire la politica, e naturalmente spiega Ganai, si può anche essere cattivi leader e per evitare questi errori chiude il suo libro con una serie di consigli, un compendio in 12 punti che potranno insegnare a tutti noi come essere buoni capi. Visto che si parla di politica, vi propongo un libro sul santo dei politici, Tommaso Moro, il Lord Cancelliere di Enrico VIII, da questi fatto decapitare nel 1535. Lo troviamo nel libro Tommaso Moro, il primato della coscienza, di Paloma Castillo Martinez, una medica che è appassionata di storia del Rinascimento. Il libro è pubblicato dalle Paoline, 316 pagine, 29 euro, ed è tradotto da Isabella Mastroleo, e ci ripropone sotto forma di un'autobiografia fittizia la vita e l'ambiente del grande umanista, per ripercorrerne la vita, lo scontro con Enrico VIII e l'esigenza di essere coerente e fermo nei propri principi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Le vicissitudini politiche in Egitto mi inducono a segnalarvi alcuni libri che ci possono aiutare a capire che cosa sta succedendo in quel paese. E si è parlato tanto in queste settimane del rischio che la vicenda egiziana possa portare a far prevalere nella politica di quel paese il movimento dei fratelli musulmani, ossia di una componente fondamentalista dell'Islam. E a questo proposito vi segnalo il libro curato da Massimo Campanini e Karim Mezzrani, I fratelli musulmani nel mondo contemporaneo, pubblicato da UTET, 254 pagine, 22 euro. Questa organizzazione, quella dei fratelli musulmani, è sempre stata oggetto di grandi polemiche perché considerata appunto un'espressione di autentica intransigenza. Il libro vuole fare chiarezza su questo punto partendo da una posizione che è tornata d'attualità proprio in Egitto, e cioè dal fatto che si vede sempre la contrapposizione tra nero e verde, come dicono i curatori, cioè l'alternativa fatale tra i regimi autoritari e l'Islam radicale. Non ci sarebbero vie di mezzo tra queste due scelte nei paesi islamici. I due curatori spiegano di considerare invece possibile una democratizzazione di quello che appunto veniva chiamato il verde, cioè la posizione islamica, e di questo processo dovrebbero essere protagonisti proprio i fratelli musulmani, che secondo sempre i curatori dovrebbero svolgere un ruolo importante. I fratelli musulmani sono considerati dagli autori una posizione moderata, e anzi Campanini e Mezzran sottolineano il ruolo del pensiero di Antonio Gramsci nell'elaborazione del pensiero politico arabo. È una tesi questa che ovviamente è decisamente contraria a quelle che si sentono spesso dire, soprattutto in Europa e in Italia. Per esempio viene illustrata in Italia da Magdi Allam, che, come dice appunto questo libro, considera i fratelli musulmani sempre e comunque dei terroristi. Nel libro comunque troveremo una disamina di questi vari aspetti e soprattutto delle esperienze dei fratelli musulmani in Egitto, in Sudan, in Giordania, nel Maghreb, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, perché appunto ormai la loro presenza si è assai ramificata. Il difficile ruolo degli intellettuali nei paesi islamici è esaminato nel libro di Valentina Colombo, che è una docente universitaria e traduttrice di autori arabi, Vietato in nome di Allah, libri intellettuali messi al bando nel mondo islamico, è pubblicato dall'Indau, 172 pagine, 17 euro. Proprio l'Egitto, scrive l'autrice, si è dimostrato uno dei paesi più intransigenti con le produzioni dell'intelletto, nonostante questo atteggiamento sia in netta contraddizione e contrapposizione con la sua enorme e importante produzione letteraria. Esempio di questa censura che rasenta spesso l'autocensura è il grande scrittore egiziano, premio Nobel per la letteratura, Naguib Mahfouz, che addirittura appunto si autocensurò non consentendo la pubblicazione nel proprio paese del libro I ragazzi del nostro quartiere. Questa fu una decisione alla quale Mahfouz fu fedele per molti anni. Insomma, la censura nei paesi islamici è viva e forte, come documenta questo libro, e colpisce perfino l'Islam, o meglio quegli intellettuali, scrive l'autrice, che si propongono nei loro scritti e nelle loro azioni di difendere l'Islam e di salvarlo dalla deriva estremista. Il caso di Mahmoud Muhammad Taha, soprannominato il Gandhi sudanese, e dell'egiziano Ahmad Subi Mansour, fondatore della scuola dei cosiddetti coranisti. Entrambi hanno pagato, il primo con la vita e il secondo con l'esilio negli Stati Uniti, il fatto di aver proposto un'interpretazione riformista dell'Islam. E il libro si conclude con un capitolo dedicato appunto agli intellettuali che si oppongono a questa deriva di intolleranza, per esempio Bayha al-Uwel al-Dar, un'intellettuale araba che è stata arrestata e privata del passaporto per aver nel 2006 esibito in pubblico dei cartelli nel quale si chiedeva il rispetto dei diritti delle donne islamiche. Speriamo che il suo messaggio venga colto dalle donne europee ed italiane, che su questo tema non mi sembrano particolarmente attente. Ma anche l'Islam ha avuto i suoi periodi di maggiore apertura, anzi di vero e proprio rinascimento. Lo si ricava dal libro che adesso vi propongo di uno studioso inglese, Jack Goody, che è un antropologo comparato, che si intitola Rinascimenti, uno o molti, è pubblicato da Donzelli, 370 pagine, 28 euro, tradotto da Cristina Spinoglio. Quando si parla di Rinascimento si pensa immediatamente all'Europa e all'Italia, ma come dimostrano i casi di Cina, Islam e India, approfonditi appunto in questo libro e anche illustrati con molte immagini che confermano questa tesi, tutte le grandi civiltà hanno avuto i loro rinascimenti. Sentite appunto queste righe che spiegano la tesi dell'autore. Un fattore importante è stata l'accumulazione della ricchezza, che ha portato non solo a scambi commerciali, ma a ingenti consumi di lusso e ha condizionato le conquiste nelle scienze e nelle arti, per non parlare dell'incremento della produzione e dello scambio. Il fattore economico ha avuto un grande significato nel Rinascimento italiano e nell'apertura del commercio con l'Est. Ci fu l'incoraggiamento da parte di sovrani e delle loro corti, comprese quelle ecclesiastiche, per esempio nell'India Maurya e Gupta, nel Rinascimento carolingio in Europa, durante la rivoluzione Abbaside in Iraq, luoghi che erano nello stesso tempo centri di attività commerciale. Il fatto di godere di ricchezze e possibilità di svago era per lo più limitato alle classi superiori della società, con scarso impatto sulle frange meno abbienti, come avvenne nel Rinascimento Buid in Iran e forse persino nel Rinascimento europeo, anche se le parate e gli spettacoli erano riservati a un pubblico più ampio. Emerge il problema della dimensione politica. Un cambiamento di regime poteva in se stesso provocare un progresso, come successe con la Rivoluzione francese o con quella inglese. Ci sono quindi due caratteristiche generali che vorrei collegare al Rinascimento. Innanzitutto la padronanza della scrittura e la cultura scritta, che rendano possibile il ricorso a testi del passato, e poi una prosperità economica e commerciale che permetta il tempo libero per dedicarsi alla cultura. Anche l'Islam, secondo Goody, ha avuto il suo rinascimento. Intorno al 1000, per esempio, si viveva davvero un ritorno alle scienze straniere, cioè per lo più alla cultura della Grecia e di Roma, ma raramente alla letteratura, che servivano da punto di partenza per ulteriori elaborazioni. Non solo, aggiunge l'autore. L'Islam ebbe anche una tradizione scientifica che fu considerata cruciale per lo sviluppo della scienza universale in epoca premoderna. Ma allora che cosa non funzionò? Perché poi prevalsero le spinte più conservatrici e meno aperturiste? La risposta dell'autore è che ciò è dovuto al fatto che non ci fu una effettiva separazione tra religione e ordinamento civile, come era avvenuto in Europa, dove, scrive Goody, l'elemento religioso progressivamente si ritrasse dalla vita intellettuale. In Islam, aggiunge invece, l'approccio non trascendente non si consolidò mai in forma definitiva come avvenne in Occidente, in parte a causa dell'assenza di un'istruzione superiore di tipo secolare, in parte per il divieto di usare la stampa e poi i periodici per diffondere la conoscenza. Un altro fattore, conclude, fu il declino del Medio Oriente come centro vitale di commercio e di attività economica. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo il libro su un ragazzo di Salina che girerà tutta l'Europa. Si chiama Van Gogh ed è il protagonista dell'omonimo libro di Timothée de Fombelle, un giovane scrittore francese che ha avuto un gran successo nel suo paese. Il libro è pubblicato in Italia da San Paolo, 422 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Maria Bastanzetti. Il romanzo è un romanzo d'avventura di cui è protagonista appunto questo ragazzo dai contorni un po' misteriosi. Lo vediamo all'inizio fuggire precipitosamente da una cerimonia di ordinazione sacerdotale alla quale lui stesso dovrebbe partecipare, e comincia da lì una girandola di avventure che gli farà girare l'Europa e fare scoprire personaggi e situazioni veramente incredibili. Il libro in effetti ha interessato molto anche i lettori più adulti. E con questo ringrazio Margherita in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi segnalo il sito www.radio24.it dove potete riascoltare tutte le nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.